Roger? Senti, Roger? Manuela! Pronto, pronto, pronto, ci siamo? Roger! Mi senti, Roger? Pronto, pronto, pronto! Pronto, pronto, pronto! Roger! Rispondi, Roger! Attenzione Gianluca, Gianluca Porto Torres si ascolta. Attenzione Gianluca, Gianluca Porto Torres si ascolta. Ciao. Pronto, pronto, pronto. Vi parliamo dall'isola dell'Asinara. Siamo a 18 km orari. Pronto? Ger. Ci siamo? Posizione. Noi siamo in posizione, non lo sappiamo, stiamo viaggiando alla velocità di 15 km orari. Direzione nord o direzione sud? Direzione nord. Perfetto, la direzione giusta, vi aspettiamo. Allora siete qua. A questa velocità fra un paio d'ore. Ah, avete sufficiente carica? Sì, sì. Ok. Siamo in vista dell'Oliva. Avanti. A che distanza? Non vi vedo. Avvistati, ne avete un po', dai, avvistati. Dimmi, fra 2 ore quando arrivi mangi. Vi vediamo. E noi le melanzane in agliata, il formaggio coi germi, il pane, eccetera, eccetera. Finito, no? Finito il pane. Abbiamo pagato. Niente formaggio con i vermi. Camari! È per Loredana, me ne frego. Ciao Mari, dove stai? Ciao Mari! Dimmi! Ma dove devo andare? È una costruzione, salite, salite! Dopo la chiesa? Sì! Ok! Vi aspetto in strada! Bene, Nela! Pronto? Stare!